si è rivelato che forse queste primarie... Anna Pizzo appunto sta intervenendo in questo momento e l'ascoltiamo in diretta. Ma qualcosa di diverso, cioè a riprodurre un sistema della politica, per così dire, inossidabile e immarcescibile, e questo è un grande problema. È un grande... Allora, la domanda che sulla quale io mi rovello da un po' di tempo è la seguente. Ma sono queste elezioni, le primarie prima, le elezioni dopo, la situazione che già da tempo viviamo, quelle che hanno, come dire, fatto deperire i prima, le elezioni dopo, la situazione che già da tempo viviamo, quelle che hanno, come dire, fatto deperire i movimenti, come qualcuno anche dice, o sono i movimenti che non hanno saputo in qualche modo interpretare il fatto che andava dato uno scossone anche a un ambito che ci faceva un po' schifo e sul quale eravamo un po' per fortuna indifferenti anche in un certo senso, cioè che guardavamo con una distanza, diciamo così. Ecco, io questa domanda che è mal posta e alla quale non voglio rispondere, è una domanda che poi mi vedo purtroppo riproporre però anche dentro a quest'ambito un po' anche con grandi entusiasmi, anche con grandi capacità, anche con grandi contenuti, forse anche con dei se li conoscessi, perché sapete che c'è questa storia che prima si fanno le primarie e poi si fa il programma, no? Però immagino che ci siano anche dei grandi contenuti, almeno quelli che noi modestamente abbiamo tirato fuori dalle persone che hanno risposto al nostro, diciamo, questionario, sono dei grandi contenuti. Al primo posto infatti c'era la chiusura dei CPT, faccio per dirne una, e al secondo posto c'era la questione del no alla guerra, senza se e senza ma, comunque grandi, grandissimi contenuti. E tuttavia, tutte le volte che ci troviamo di fronte a grandi questioni di questo tipo, purtroppo ci troviamo sempre dentro a quel meccanismo lì, che da una parte dice, mi ricordo adesso la questione del no alla guerra senza se e senza ma, chi dice... Però i movimenti la guerra l'hanno persa, perché tanto non sono riusciti a impedirla. La guerra c'è stata, quindi abbiamo perso noi. E chi dice no, non è vero, perché quello che si è creato attorno e insieme con tante diverse sensibilità, culture, capacità, intelligenze, si è mosso attorno alla questione del no alla guerra senza se e senza ma, è una grande vittoria che non ci può togliere nessuno, è una cosa che ci permette di costruire, che mette un altro mattoncino al nostro cantiere, insomma è una cosa molto importante. Non abbiamo fermato la guerra, ma Bush non ha vinto, Luca, e questo è un fatto, sta sotto gli occhi di tutti che Bush non ha vinto. Ecco, questa è la contraddizione nella quale noi ci troviamo. E questa è esattamente la contraddizione nella quale noi potremmo dire una volta di più, e non come nostalgia e non come rimpianto, ma noi lo abbiamo detto con una copertina che abbiamo fatto su carta, la politica è la zona rossa. Lo potremmo ridire oggi questo, potremmo dire quella politica, quel sistema, quegli apparati, quelle formule sono fuori corso. Non ci sono più. Facciamo finta, se non possiamo farlo in questo momento, che queste siano le ultime elezioni del precedente secolo e che oggi cominciamo a costruire le condizioni per la nostra politica, per le nostre scelte, per le nostre relazioni, per le nostre anche desideri, ambizioni. Riproposizione di nuovi diritti. Come si fa questo? In un certo senso anche richiamandosi a quell'ispirazione originaria che diede luogo non solo alla violazione della zona rossa a Genova, ma alla costruzione di una capacità fortissima di 100.000 ragioni per le quali la zona rossa non andava solo violata, ma andava completamente eliminata. Siamo in grado di fare questo oggi? Non lo credo, però potremmo provare a costruire le condizioni attraverso le quali questo processo noi lo rimettiamo in atto, perché ce le abbiamo le qualità, ce le abbiamo le sensibilità, ci abbiamo anche una certa esperienza, abbiamo anche, come dire, insomma, alcuni strumenti, abbiamo qualche giornale. Io purtroppo mi autodenuncio quando Simona diceva prima i politici, io fino adesso ho parlato come redazione di carta, poi per l'altra metà nella mia schizofrenia ormai dilagante sono anche diventata consigliere regionale del Lazio e vi posso assicurare che quello che descrive prima, che ha descritto prima Simona, o quello che descrivo Graziella eccetera per quello che riguarda il Parlamento è moltiplicato nella regione Lazio, oppure forse perché è più piccolo si vede di più, non lo so, ma è una roba orripilante naturalmente. Allora stamattina apro il giornale e scopro che un altro di AN si è trasferito nel gruppo misto per poi entrare nella Margherita e quell'altro, cioè una roba che non vi dico che cosa sta succedendo, è veramente un osservatorio che se non fossi contrario ai giardini zoologici troverei antropologicamente diciamo interessantissimo, però sono contraria io ai giardini zoologici, quindi non li posso proporre per nessuno, ecco, diciamo così. Però effettivamente c'è proprio un problema, che guardiamo delle cose che fanno impressione. Allora, detto tutto questo, e sapendo che noi siamo queste persone qui, cioè siamo persone che vivono queste schizofrenie, siamo persone come Graziella, come Giovanni, come Luca, che un po' fanno anche politica, ma soprattutto cercano di farlo in un modo che è quello che abbiamo imparato dalla nostra storia più forte, da quella più vera, che è quella che abbiamo, con cui siamo cresciuti un po' dentro i movimenti, parecchio. Io per esempio sono cresciuta molto dentro i movimenti, non essendo mai appartenuta a nessun politico, a nessun partito, non appartenendoci neanche adesso, sono stata eletta come indipendente. Ecco, io penso questa capacità, questa possibilità dello scatto che ci ha fatto a Genova superare 100.000 divisioni, no? E che ci ha fatto andare convinti delle ragioni non soltanto di violare la zona rossa, ma di costruire terreni liberi fuori dalla zona rossa. Noi possiamo rimetterla in campo, potremmo rimetterla in campo, ci vuole del tempo, perché tutto quello che è stato fatto grazie alle nostre disattenzioni, anche alle nostre assenze, un sacco di errori che sono stati fatti da molte parti e grazie al fatto che la politica, naturalmente quella diciamo di tipo istituzionale tradizionale, è piuttosto accorta, attenta, per cui usa tutti gli spazi che vengono lasciati vuoti naturalmente, e noi in questo abbiamo sofferto, di questo stiamo soffrendo anche. Ecco, io credo che riaprire degli spazi e fare in modo che il processo che ha portato a convincerci della necessità di cancellare tutte le zone rosse sia ancora oggi un terreno possibile.